una falsa saldatura, hai capito? Dal caldo al freddo, gli ho saldato, adesso è perfetto, funziona adesso. Non ha più problemi adesso. Mi figura di giù. Dove? Sai chi è questo? Sì, già lo sai. Quelli sono stati. No, cosa? Era... il 118. Gli stati che erano la, con la radio. C'è il ricevitore, diciamo. Adesso ce l'ho portato sull'ATP. Però la frequenza di sotto è l'alta. Gava. Soltanto quando lui, quando è in ricezione, poi schiaccia la portante e se ne va tutto a zero. Ma di dove? È la 27. Qua, nel 48, lui è per dire, lo metterlo in ricezione. Schiaccia la portante e se ne scende a zero. Dai un paio di confetti, a vedere se sale. Vedi, lo smitter così funziona. Che è in ricezione. Poi schiaccio e va tutto a zero. Funziona, solo metti il beep. Sto uscendo da parecchio adesso, perché sta uscendo, ma evidentemente c'è lo smitter che è in ricezione, c'è in trasmissione che non ti segna nulla. No, io sto usando sempre l'87 adesso, lì è attaccato col commutatore. Ah, lo sai, quegli apparati sono, cioè, modificati, è un casino, insomma. Sono belli, la verità, però c'è sempre quel rischio, capito? Quando lo usi per un bel po' di tempo e comincia a vedere ad operare le balle, perché si forma la pattina, eccetera, eccetera, quindi... Non dà neanche il watt, capito? Tu schiacci la portante e non dà il watt. È logico. Aspetta che attacco l'antenna diretta all'altra, a vedere che si incoppia. D'accordo. Andre. Ehi. Sta andando questo? Sì che sta andando. No, aspetta un attimo, perché mi sento... Se tu parli ti sento dal microfono. Ah, non lo so. Aspetta. Prova adesso. Culo di te, prova te. Adesso dai il microfono, dai. Dove c'è qualche collegamento che non va bene per questo. Boh. Tu parlavi dal microfono, parlo e ti ascolto. Ma dimmi tu. È chiaro, dalla capsula. Allora c'ha le conversioni differenti. Adesso sto usando il solito che attacca l'87 e sta andando. E quindi che va bene, visto 4 watt. 4 watt, questo è il 48 originale. Questo è originale. Eia, già si nota. Gara, aspetta che li metto il coso, che sennò qua non sento un tubo. Metti. Ecco fatto, e le giù sono fe... Io da più, diceva quello. Ma buona è la modulazione di questo 48, Antonio. E auguria. Già va bene. L'altra che non so che sincope ha preso, vabbè. Vabbè, quindi... Non hai più voglia di fare i lavori in ambulanza? No, non c'era il tanto più, Antonio, troppo casino c'è adesso. E perché non ti fai qualcosa per coso? Per fare l'antincendio? Adesso l'estate, tra un po' li fanno i bandi. Sei lì da quelli che stanno lavorando di lì, cosa hanno fatto, che cosa hanno fatto, eccetera, eccetera, almeno lavori lì in ospedale per l'antincendio, stai bene, non fai un cazzo la mattina alla sera, stai in giro per i locali e ti guardi lo stipendio. E che lì ci vuole l'alto rischio, capito? Sì, bene, cosa lo fanno tutti, eccetera. Lo fanno, c'è anche nel coso, nel coso, già lo sai, nei ristoranti, quindi vengono i vigili del fuoco, ti mettono due tambollare e poi ti fanno usare delle cose differenti, eccetera, eccetera. L'ho visto, 4 mesi fa l'ho visto io, di qua di fronte a casa, figurati, hanno fatto il corso per l'antincendio dell'hotel. Cava, io ho quello basso rischio. Ma sul rischio io ho quello della forestale. Beh, tu fai l'altro e se la via è incomodo. Io chiedi a loro, dice, cosa devo fare? Io ho fatto quello basso rischio, devo fare l'altro. Per essere come voi, così sono tranquillo e capito. Magari se non entri all'ospedale civile entrerai in qualche altro ospedale, a Iti, a Tiesi, chi su vi è, ma non sei tranquillo, capito? Ti fai le tue ore, dopodiché te ne vai a casa se c'è lo stipendio in mano, capito? Cara gara, si conferma. Già ci stavo pensando, adesso vediamo come organizzarmi. Cava cava. Già va bene. 7 watt da così, fischiati. Ha fatto un tipo che... Ma come aspettavo di trovare la portata cosa, la verità? Dice, tu cosa ci fai tu qua? Dice, no, sono entrato a fare questo lavoro qua, mi ha fatto lavoro all'antincendio. Che cazzo gli ho detto all'antincendio? Se vendevi detto... di tutto, vedi, materiali idraulico, roba del genere, non bello, adesso ho cambiato cose, ho fatto il corso e sono riuscito a entrare nel letto. E c'aveva più di 40 anni, non è che ne avesse di meno. Lo so, c'è anche un amico mio che ci lavora lì alla GSA. E appunto per quello, fatti quello e sei tranquillo, non lavori tutti i giorni, guardami forte. Sono lavori in qualche albergo. L'antincendio, chi se ne frega, sali e scendi per i cosi, nel caso ci sia ancora, prendo un estintore che ci sono in tutti i piani e poi dopodiché sai la prassi come fare, no? Il corso bisogna farlo per forza, se no come cavolo fai? E tipo pompiere rimane, che lo sai anche tu. Sì, sono vigili al fuoco privati, si può dire, dai. Esatto, sì, bravo. Ma fino a un certo punto vigili al fuoco. Sai, tranquillo che se dovessero evacuare i locali è un casino, non ci vogliono solo quelli, non ci vogliono infermieri, non è così facile quando piglia il fuoco di impianto elettrico, cosa vede con tutte quelle apparecchiature adesso? Cara, cara! Chi c'era poi? Marco non c'è più. Appisolato. Antonio, sei spostato. Ho detto appisolato. Ah, ti sei pisellolato, ti sei. Pisellato. E Bombolo non c'è più. No, ha chiuso Bombolo. Devo chiudere perché sto uscendo. Dai, ce la recensiamo dopo più tardi. E ciao, Aldo più tardi, buona passeggiata. Sto uscendo un attimino. Già ritorno subito, va. Ciao Antonio, ciao, sentiamo. Faccio un giro anche da parte mia. Visto che alla fine mi sto autotappando a casa. Ciucchi. Hanno tutti chiuso? No, io ci sono, sto controllando questo microfono, vedo se cavolo è successo. Controllalo. Antonella, modulazione pulita, 1, 2, 3, 4, 5. Vedi un po' se è pulita. Sì che è pulita, voglia. Tu la fai questa maniera dell'88, te la ricordi, sì. No. Hai detto la frequenza. Ma io ti sento basso di modulazione, Antonè. Come mai? Basso di modulazione. Adesso, vero te? Adesso è meglio. No, perché Daniele è bello brillante di modulazione, tu eri più basso. Dimmi, cosa mi hai chiesto? Se mi ricordo il canale 88 della banda marina. Sì, quello internazionale però, non quello l'altro, No, no, no, non, la canalizzazione non la conosco. Sì, voglio trovare questi patate di Pacific. Ce li ho, ce ne ho due nuovi, ce li ho. Ne ho due. Allora, vediamo quale può essere. Finisce con 425. E io vorrei più il libretto, perché c'è una scatola col libretto. c'è una scatola con di questi portate dei capitoli, il manuale di istruzioni, tutto ciò. No, adesso non mi ricordo più la frequenza, una volta me lo ricordavo com'era, forse 1-6-5, adesso non mi ricordo. Vediamo se collabora questo smartphone con queste pubblicità, per carità. Vediamo se ci sono le tabelle, eccolo qua. Vabbè. Ah, 10 pagine da scorrere, qui ci sono mappe. Aspetta, 10 pagine, aspetta che controllo il rapido manuale, aspetta. Accetta, maledetta la volta che hanno fatto la legge sulla privacy. Accetta i cookie. Allora. Frequenza TX, sì, c'è, 425, sì. Ah, in semiduplex è questo 88. Vabbè, io ricevere posso ricevere, però, non mi chiedere di trasmettere in certi luoghi, non ne voglio sapere. Avanti il brecco. Avanti chi chiama? Niente, non mi sentono. Non mi sentono con questa antenna di plastica, mamma mia. Chi è che non ti sente? Chi è? Stavo pigliando la signora al volo, perché sennò stava calendo. Comunque, se devi fare una prova, io posso ascoltare, Antonetti, ho detto. Sì, aspetta un attimo, che c'è quello, sono la tabella delle frequenze. 1-5-7-4-25. Non me la dà, sto schifo di ricevitore, non me la dà. Vediamo se adesso me la dà. No, che non me la dà. Che rompimento di balle, niente da fare. Che schifo di roba, quando deve essere funzionare non funziona mai sta roba. Marine, tolgo questo. Ho fatto tutto, Marino è 1-5-7-4-25. Peccato che non vanno di più questa cosa. Al culo, cazzo. Dati, tu mi chiamate, ho dato, che ho ricevuto la Natalino, arrivava a 60 e qualche cosa. Questo parte la canale 1 al canale 88. Niente, qua è un caos totale, non ho capito come sia canalizzato. 108 e 300 mi sento io, e come mai? Ci sono anche canali duplex qui adesso. Allora, l'82 va in trasmissione 1-5-7-125, ricezione 161-725. Sono i canali duplex, ci sono anche per questa maniera, anche su 20, 157 000, 161 600, ricezione, trasmissione 157. Comunque questo 88 a 4.25 finale ce l'ho adesso. Ce l'hai? Allora ti mando il bip, lo riconosci subito, aspetta che apro la finestra. Fanculo. Vediamo se l'ascolti, guarda. Senti? No, zero totale, solo che io non ho già questa antenna è UHF per ricevere, oppure non arrivi semplicemente e non fa tutto un pasticcio, e qua ci vuole un'antenna appropriata per ricevere VU. Boh. Stavo pensando di sostituirlo con quella Nagoya 350, quella specie di quella bianca, piccolina. Boh. Che cosa? Quella che c'hai tu? E tu merda? No, per ricevere quella con i tre radialini, non so se t'avevo mandato la foto. No, perché questa è UHF, no? Questa Sirio 440 è UHF. Sì, i radioamatori li ricevi perché hanno potenze discrete, antenne discrete, però in VHF perdo la maggior parte dei segnali, capito? Perché l'antenna è monobanda in realtà. Ah, capito. E allora è niente. Non mi senti per quello. Una frequenza marina, l'altra e sono le frequenze cambia totalmente. Ci vuole un'antenna da gabbana, ci vuole. Se no non mi senti manco morto. Ci ha trovato pure un'antenna di quelle marine. Ecco, adesso ho messo l'antennino. L'antennino di 50 cm sti, telescopico. Prova un po'. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. No, zero totale. La distanza non viene coperta, oppure la canalizzazione è diversa. Io sono a 157,425 in ricezione, perché questo è ricevitore. Però non... anche prendo... Aspetta, prendo lo squelch, niente. Ho capito. Allora, vediamo un pochettino, aspetta. Vaffanculo. Non c'è questa. Allora, partiti. Vaffanculo. Però limitati assolutamente solo al test, però funziona o non funziona, vabbè, già lo sai. Sono caduto sotto l'urato, io c'ho il patentino, quindi non posso, non è quello il problema, capito? Il patentino magico l'ho sempre avuto, se no lavoravo in barca a pensare degli apparati marini, cos'è quello. Quindi patentino marino ce l'ho, e ce l'ho anche da un bel tempo, da quando lavoravo con Marco Micchi, quindi sono coperto per quello, c'è il nome, il nominativo mio, nome e cognome, addirittura c'è anche il posso entrare nella frequenza della TP se voglio, ma non me ne frega niente, perché ormai l'appalto è, capito, dopo 5 anni, ma non me ne frega niente. Mi lo starnuto, mi... E via. Mi sta vedendo lo starnuto. Aspetta, puoi vedere con l'antenna esterna invece? Ecco, adesso dovresti sentirmi però. Tu hai fischiato. Dovresti sentirmi. Ma tu hai fischiato. Ho sentito qualcosa io. Sento fischiare il bip. Allora, se premo faccio battimento. Sento. Allora, premo io e così guardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Sì, ho sentito. E poi il bip, previ? Hai visto, con l'antenna verticale, con la X200 ho messo l'interazzino, esce, quindi funziona bene. Siccome c'ho... Cioè quelli, infatti caso 2 che stavo provando poco fa sono forzati, vedi, capito? Invece questo è uno di quegli apparecchi cinesi veicolari, che c'è la frequenza agganciata. Tutte cineserie sono ormai, tutto in Cina fanno, mamma mia, è una cosa incredibile. Tutto, dal vestiario, poi queste scarpe di plastica, veramente uno schifo. C'è tutte le scarpe che compri, anche Nike, che coso, salvo rari casi di rari modelli in pelle, magari fatte in India ancora. Tutto plastica, c'è la suola di plastica, la tomaia in plastica, la soletta è in plastica, alla fine è tutto petrolio. È come avere i piedi in una busta di immondezza. Avevi che le scarpe la ginnastica con la rotella sotto, avanti e dietro, quindi in pratica non c'è bisogno neanche che usi le scarpe, è come avere il pattino sotto, tu vuoi andare a fare la spesa, non fai altro che usare con le scarpe lì e scendi, e poi alla salita devi metterti il freno e poi cammini. Tutto, scarpe di plastica, antenne di plastica, radio di plastica, tutto di plastica. E c'è anche l'aggeggio per di tutto di plastica, c'è, hai capito? E, ci sono le bambole, le voi giapponesi, quelle che è, tante le voi ve le so. Le auto ci sono, 5-6 mila euro. Sono una cazzata su AliExpress, basta che ti fai un giro, ci sono anche le biciclette elettriche, belle. Porca miseria, c'ho il naso fuori uso, mi devo spruzzare un po' di decongestionante, prima ho starnutito, mi risuisci di rocci, perché io risento della polvere, poi io ho una rinite perenne, una rinite nei secoli dei secoli, capito? Cronica, ecco come si, non perenne, cronica volevo dire, già siamo lì comunque, il significato è quello. Io lo so, si me l'ha detto. Purtroppo i mali ce li abbiamo, ce li dobbiamo tenere a un certo punto. Daniele, vediamo se ha finito con la col microfono, si è risolto. C'è qualcuno, stavo uscendo in banda laterale. Come, Antone? C'era qualcuno che parlava in banda laterale, ho detto. Qui? Io non ho sentito nulla, non ci ho fatto caso, però c'ho un po' di squelci, squelci. Io qua lavoro sempre e solo con lo squelci, non voglio sentire frusci, ronzi, dolci rumori. Poi l'ho sentito io poco fa, due volte. Sarà propagazione spagnola o portoghese. Marco, mi stavi chiamando? Sapere se avevi risolto con quel microfono. No, l'ho lasciato perdere, sto azzuffando un altro 48 che l'ho aperto, ma non avevo sapere di andare. Aspetta che metto mano a questa cosa, silenzio tutto, ciamberi, c'è un rientro mio. Ma come mai questi rientri? Boh. Oh cacchio. Cosa dai. Aspetta, vediamo se sono io. Sì, mi sento a bordo. Ah, perché sto usando l'antennino interno, poi è attaccato allo stesso alimentatore, sicuramente qualcosa rientra nel ricevitore. Ma con... Poi, caro, buonasera, non so con chi stai parlando, acceso in questo momento. Antonio Bombolino, è entrato? Sì, anche chiuso. E deve provare questa antenna nuova che ha messo, che dice che pompa questa qua. Già esce bene, già provata. Che ha pagato. Antonio, ci sei? È uscito Antonio Bombolo. L'ha provata e... funziona, il segnale è uguale, c'è intorno circa 9+25 da liscio. Credo che sia, dice che è diversa, è come se avesse lo stile un po' più sottile. Potrebbe essere persino la Ringo dell'Eco antenne. Questa nuova che ha messo? È un'ipotesi mia, ha detto che non è uguale, è come se fosse un modello diverso di Ringo, magari, e ce l'aveva da tanto, magari è dell'Eco Antenne, quella buona, famosa. ho capito, io gli ho scritto perché mi ha scritto la chissà bomba a virus, e detto, sentiamo, adesso sto entrando in frequenza, l'ho acceso per quello, aspetta, scusa il telefono. Sì, ma senti, è stato adesso, sono tornato da mezz'ora come minimo. Ma pompa vero e le prove in città cosa servono? Con me e con Antonello e con Daniele, cioè, stiamo parlando sempre a distanza di un chilometro, che prove sono? Vanno fatte in distanza, che ne so, a Muros, a Osilo, a Porotorre, Salghero anche se possibile, le prove, ma non a un chilometro, siamo sempre lì. La Ringo è una zona che in pratica spara fuori, non spara in città. Hai capito? Si è pensata così. La prima Ringo che hanno costruito era così. C'era mezzo giro di rame, largo, vabbè, mezzo giro di rame di largo, non tre di alluminio, hai capito? Era una cosa allucinante, pompava la cosa male, pompava. Ha detto che questa pompa. Sì, già, però le prove le fa sempre in città, cioè non... che prove sono? Cioè a me arriva come arrivava prima, dov'è che pompa più dell'altra? L'ho attenuato Santiago 5 come l'altra, cioè... Magari lui che si convince così. Diciamo che l'altra si era sciabidata, probabilmente l'altra c'aveva qualche problema dato dal vento, perché tutto ieri è insorto, tutto ieri è comparso. Gli sono partite le stazionarie a manetta e vedevo i segnali oscillare che andavano e venivano mi già, e quindi probabilmente è insorto un problema lì, adesso che ha messo questa gli sembra che riceva meglio. Comunque mezz'onda è la luna, mezz'onda è questa, peraltro si molto simili, quindi il guadagno è sempre quello. Che mai fatto? Se ci metteva la Game Master che sta venendo Luca e te l'ho detto di prendersela quella, che almeno va bene. Ma io è da settimane che glielo dico, da quando ha cambiato casa, ha detto prenditi la... l'equivalente della Game Master che fa Luca, che è ottima, è leggerissima, non ha stazionarie. E niente, lui ha voluto il quarto d'onda, poi questa mezz'onda, cioè sta andando tutto a gradini, poi l'alza di un metro, poi l'alza di un altro metro, cioè metti tutto a manetta direttamente, cioè mettiti un palo lungo, tiranta se vuoi tirantare, non andare a metro, a decibel a decibel. È solo che lui mi ha detto una cosa che non ho capito su quella di Luca, che dice ma se cambio casa non si può smontare. Ma perché non si può smontare? Cos'è? Una cosa che è montata, dice che è schiumata, no, non me l'ha saputo spiegare bene, dice che è schiumata. Ma cosa vuol dire? Che bisogna schiumarla anche lungo lo stilo e diventa un pezzo unico, com'è sta storia? Ah, non lo so, io so che Luca ce l'ha proprio originale, in busta, ancora mai usata. Ah, ce l'ha proprio originale volendo. E lì sta Antonio, poi bisogna vedere se vuol spendere, quanto vuol spendere, però, cioè, io l'avrei presa, anche quella fatta da lui l'avrei presa occhi chiusi, essendo Antonio, capito? Magari quella che fa lui la schiuma, non lo so, però quella originale è originale, boh, la può smontare tranquillamente, c'ha due fascette, basta che togli i pezzi e poi la smonti, non c'è problema. C'è poi a metà antenna, c'è una specie di PL che aggiunge il cavo, lo svitti, quello lì, una volta che lo svitti l'antenna si fa in due. E bisognerebbe chiedere a Luca Flipper, attenzione Luca Flipper se si ha l'ascolto. Perché io non ho mai vista dal vivo né la Game Master e né quella fatta da lui, quindi non so come sia il procedimento di installazione. E vabbè. Se hanno una 5 ottavi, ma Game Master cioè, va più che bene, tanto dove lui non è nemmeno altissimo, capito? Lui è anche più protetto dal vento, capito? Tu sei invece fronte mare, pericolosamente fronte mare, cioè a te arriva il vento pieno, ma di brutto. Io sì, infatti era piegata quasi a toccare a terra. Però il bello della Game Master è quello che flette bene, è bene. Flette non si spezza per quello. E niente. So che Luca con le che fa le vulcanizza tutte quante per avere più tenuta e per protezione anche dagli intemperi eccetera, però che l'abbia schiumata non l'ho mai sentito. No, io ho sentito questo termine da Antonio Bombolo, schiumata. Dice, no, ma dice, se cambio casa non la posso smontare perché è schiumata. Vabbè. Dunque le mezze le ho detto, tanto mezze misure, cioè se cambia antenna passa da un quarto d'onda a 5 ottavi direttamente, non stare con queste mezze misure. Prenditela buona, punto. Aspetta Marco, mi stanno chiamando, avanti chi chiama Gianni. Oi, oi, dove sei? Cappa, cappa, con che apparecchio sei? Non sei consulito. Ma sei basso basso mio G, io ti tiro fuori, già lo sai perché, sai, ho un'antenna che non permette, però sei bassino. E che antenna stai usando G? Io non so se ti ascoltano gli altri, c'è anche Marco Connor, eccetera, eccetera, avanti Marco. No, no, qui QRM è 2-3 di segnale, lui è nel QRM, non arriva proprio. Cappa, Marco non ti ascolta, G, vedi. E che cappa ne ha preso oggi? Cappa gatta, cappa gatta. E l'altro bene le 22. Dove sei adesso? Sì, che ti ascolto. Anzi, forse ti ascolto meglio adesso. Ho sentito che è a Tronco Reale. Beh, adesso ti sente anche Marco. Marco, ti ha salutato. Comunque a filo di QRM. Ciao Eugenio, se mi ascolti. Un salutone. Santiago 4 già, troppo basso, dai, non è capibile, fammi da ponte. Ha detto che quando attacca l'altro di apparecchio lo senti meglio, che adesso ha cambiato camper, ce l'ha comprato nuovo. Ah, ottimo, ottimo. E che antenna sta usando in camper? È un'antenna piccola, sicuramente quella che c'era nel camper dopo di serie. Confermi, quella lì, l'antenna di serie che c'era nel camper. Cappa, hai capito Marco? È l'antenna che c'è di serie nel camper, adesso metto l'antenna anche per il baracchino. Eia, caspita, non la mettevano tanti anni fa quando era in voga, la stanno mettendo adesso. E comunque si può migliorare, si può migliorare. Bisogna vedere che antenna è, perché quelle da camper, ti ricordi quella che ho comprato io della Midland, che la Sirio la fa uguale, aveva una resa drammatica, è un'antenna che è fatta per i camper o anche per le barche, e non ha bisogno di massa, di piano di massa, però ha una resa drammaticamente bassa, drammaticamente, l'ho provata anche in macchina, è terribile già. La sigla non me la ricordo, mi pare si chiami Camper 27, tipo una cosa del genere, tipo Sirio o Midland Camper 27, è lunga un metro ma c'è una resa demenziale. Marco, tu quando fai giri su internet devo chiedere una cosa, se mi trovi la sigla di X, Sigma DX, sì, cos'è, veicolare o base? Oh, veicolare, qua, Aminox, Aminox. Ma Sigma PLC Minox, quella lì, vediamo se si trova. Gianni, ma tu come mai sei saturazione? Non riesci a pilotarlo correttamente? Gianni, la mia com'è satura? Vedi un po' 1, 2, 3? No. Io sono attaccato, guarda, Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, faccio la magia e adesso non c'è più. Adesso non c'è e adesso c'è. Cambia la modulazione, la peggiora comunque, anche minimo. Oh, avete parlato in due, ciao Claudio. Guarda che c'è Eugenio a zona Tronco Reale, guarda se lo senti, sicuramente lo senti. E intanto ci hai mangiato radio oggi, che sei la luna in radio. siamo alla frutta, cioè siamo, sono alla frutta Claudio, non sto uscendo, quindi non so come passare il tempo. Sono alzato tardi, ho sceso, c'era Bombolino, c'era Pomponio prima poco fa. Per passare il tempo, perché sta diventando tribula la cosa. Chiama Eugenio, e c'ha il camper nuovo, Claudio, lo sta provando. Avanti Eugenio, avanti, lo senti qua? Tutto vai, Santiago 2, sì. Beh, passa anche da me, c'ha l'antenna che sta in rotazione nel camper adesso, c'è anche l'antenna del barattolo. Con l'altro dampa c'è compare, sempre venendo in miseria, sempre comparendo, ragazzi. Già, non mi piace la modulazione, sei sciatturo. Come sciatturo? Sì, sciatturo, non mi piace la modulazione. Non è scusante. Perché mi senti la mia Claudio 1-2-3 questo è con Chihuahua di Wagan. Tu che sta chiamando a cosa? Io non sono sordo, mi senti un'ora? Io non sono sordo, ho capito che sta chiamando a me. Dimmi Eugenio. Ehi, ciao, buonasera, tu sei troppo basso. Ho capito. E dove sei? Vabbè. Troppo basso, ti sento. Cioè, prima ti sentivo molto forte, adesso sei troppo basso. Vabbè, sì Marco, ti ho sentito, non ti preoccupare. Guarda che sono sempre accese qua, no? Anche se non entro, ma sono accese. Ti ho sentito che hai prenotato davanti al baracchino. Ti ho sentito un bombolino, ti ho sentito. Ti girare di lui. Sono qua, 300 reondi. No, ma abbiamo staccato appena. Sei tanto domenica, è una giornata morta. Ti volevo chiedere, ma eri tu che avevi premuto il portante verso le 2 e che ho sentito un verso strano appena, ho detto ma è successo qualcosa? Forse non eri tu, era qualcuno che stava giocando. Non sono io. Perché quando schiaccio la portante io già me ne accorgete, non ti preoccupare. Ma lo stacco era tipo il tuo, tipo MC 60, una cosa del genere. La sentivo, che facevi? Ho fatto, ma è successo qualcosa? Puoi parlare? E allora non eri tu, è qualcuno che stava giocando. Ah, ero io. Come mai Gianni quando attacchi c'è questa leggera saturazione? Marco no? Perché non ho abbassato i watt dell'apparecchio. Il mio apparecchio esce con 20 watt, quello di Marco no. Sì, qua è pilotato con 4, anzi aspetta che stacco. Santo Eugenio, se non lo sento è inutile attaccare, guarda. 1-2-3, ora è liscio. Ecco qua, 4 watt di pilotaggio. 9 più 30, sì, 4 watt, 9 più 40 con 4 attacchi. È il segnale più alto in assoluto. Sì, il terzo dopo Antonello e Roberto con tutti i cibi attaccati. 9 più 30 arrivi con 4 watt, cazzo, un pisantenna, cazzo, giocato. Come dicevo io, l'antenna di plastica, che adesso è fatta in Cina, mi Claudio, fanno tutto, scarpe di plastica, antenne di plastica, tutto, baracchini di plastica. 9 più 30, non arriva nessuno neanche con linea attaccata, 9 più 30. Gianni fa da 9 quasi 20 a 9 25 attaccato. Tu sei 9 30 liscio, batte un bombo. Allucinante, sì. Evidentemente la mia posizione che conta molto per la ricezione, poi adesso anche non è alta, quindi per quello. Va bene. Stavo guardando lo sport e mi sono come giocare la maglietta, non va bene, cazzo. Ho messo il dubanetto, non dovevo metterlo, cazzo. Avanti Gianni, riprendi. Sì, io riprendo e adesso un attimo in quel rischio che mi sta prendendo la biocca. Ah, ciao, attenti sempre. Professore, ma io pensate, sto guardando la TV e mi sono avuto un mito, mi sono svegliato adesso. C'era la radio accesa, figurati tu. La prossima volta che ti addormenti a quest'ora ti metto il fischio, così non ti dico Claudio sveglia! Bisogna che metta qualche bip. Vabbè, riprendi, chi c'è? Gianni si sta cavagliando, io mi sono svegliato adesso, chi c'è tu, poi Antonello, poi chi c'è? c'è Daniele che stava mettendo a posto un Alan 48. E io ho sentito stamattina. C'è una luce con la radio. Ah, guarda, guarda adesso, questa è l'antenna diretta, cioè Superstar 3009 antenna diretta, diretta dal tetto, con il cavo grosso collegato. Guarda se è 930 pieno, 931, 932. Nudo e crudo, Questo senza filtro, senza niente. Baracchino, antenna, punto. Io ho 30 pieno, sì. Non cambia niente a me, 9.30 c'è pochi strumenti, 9.30 liscio normale, 9 più 30, con 430 che è precisissimo, più 240, 9 più 30. Eia, va bene, sì, tu attenuato sei uguale, ti ho attenuato, che eri 7, no? Mi ricordo. Sì, non influisce più di tanto, però lo sai che in alcuni casi, togliendo filtro e tutto, per alcune stazioni influiva un po', cioè ricevevo meglio con l'antenna diretta, perché sai, spezzoni, spezzoncini, poi le saldature magari non sono perfette, il cavo è quello del G58 che c'ha magari la calza non molto fitta, no, lo sai, no, tutto influisce. Va bene, dai, riprendete che vado bene. Gianni, riprendi. Gianni si era ammaiato. Eia. Dunque, vabbè, adesso sono entrato magari a parlare più nel pomeriggio, poi dovrò andare in cucina a fare solite cose, quindi mi spezza la serata, capito? Mangiare così tardi, mi spezza la serata. E quindi meglio adesso, così poi stacco e mi dedico ad altro, ok? Chi ci è rimasto in poche parole? Io? Boh, anche questa c'è accesa. Adesso naturalmente Claudio, per provare se stava funzionando tutto, no? La scarpetta, ho dovuto mettere l'alimentatore da 30 a cui ho staccato la ventola, ho staccato il connettorino perché tanto non scalda mai questo alimentatore, cioè che tu lo usi anche con molto assorbimento non scalda. Questo Proxel da 30 ampere, quindi la ventola l'ho scollegata, quando troverò il ricambio, che l'ho già trovato, diciamo quando lo ordinerò, gli metto la ventola nuova, perché i cuscinetti a sfere sono andati, quindi fa ronzì con la ventola, fa casino, invece l'ordino nuovo costa mi pare una decina di euro e ho risolto il problema, però dovendo scegliere preferisco gli alimentatori senza ventola, perché me ne accorgo parecchio, soprattutto la sera, la notte, quando c'è silenzio. Dottore, se ti ho aperto la cosa, vedi? Senza vento, quello da 7 ampere non ne ha, è un Proxel da 7 ampere e ventola non ne ha, perché non scaldano niente. E tengono anche abbastanza cioè gli ampere sono effettivi, capito? Poi c'è questa da 30, ce l'ha la ventola di serie, però è sempre rimasto freddo, cioè diventa appena appena a temperatura corporea, ma oltre non va. Anche i componenti, allora li ho aperti, li ho toccati, non scalda più di tanto, per fortuna, tanto capirai poi me. Tanto i lineari, io non sono abitué ai lineari, quindi potenze siamo 4 watt, 10, 12 così, ma non di più. Va bene, riprendete, vado a bere. Pomponi, riprendi. E io già sono qua. Non so se potete Pietro Plaza, baio qui. La nostra paletta. C'è quello. Vabbè. Quello di Ale Grande, il 2002. Adesso ce lo metto un attimo, si chiama. La patata tanto non lo sto usando, faccio quello da 100 watt e la tappo via. Mamma mia, voce Antonè, voce voce per terra, mi senti adesso? adesso sì, cioè, certe volte sei così, ce l'ho così. Vabbè, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ce l'ha fatta lei, per tua volontà. Venga, avete cittadinanza, che se no credo ti salvini. Con 857D. Come? 857D. Io vabbè. Datemi un secondo, lo lascio come la faccia. Devo far girare tutto per gli apparati, se no non funziona, ci hanno dei problemi. E poi di ritardo ne uso uno per farlo girare, più che altro. Vabbè, l'apparato me l'ho dato, l'ho pensato l'amico e anche i due PMR che sto usando in ospedale. Marco, quindi, tanto c'era una passata di roba qua che non so cosa cazzo fare. Boh, Antonio, io faccio fatica a ascoltarti, però è colpa... Io non mi ricordo qual è la regolazione migliore. Dietro c'è quella levetta. Una è meno cupa, l'altra è più cupa. Boh. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, adesso è a meno bassi. Adesso è a meno bassi. Ma prima eri proprio così, lo sentivo così. Ah, vabbè, adesso va meglio, là. Quindi sopra a posto, va. E poi ricordati, con quel mic, vabbè, il mic che è in manetta ovviamente, è due dita dal mic devi stare, due dita dal mic, va bene. Che tanto per farlo girare più che altro il 27, se no già lo sai che lo uso in VU, con la palata e basta, non lo uso per altro. Peccato, quello era bello in 45 metri, porca miseria. Non si può più fare niente, anche il pirata. Che tempi brutti. Stanno andando a chiudere tutto. Il giro di vite stanno facendo in tutti i settori. Che peccato. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Adesso ho passato il Covid. Anche il PML puoi andare a parlare, ormai usano tutti i 462 125 come frequenza, ho visto, e quelli che parlano lì all'ospedale usano il PML, usano quelli dei cinesi, quindi ci hanno fatto l'omologazione da soli. Sì, per modo di dire, l'omologazione. Bene, ok, vabbè, adesso rimetto com'era, ripristino il filtro, passa basso e tutto, dai, bianco per me. D'accordo. Vediamo se forse c'è, test, sì, sembra che ci sia, è qua. Quanto ne so, potrei essere senza antenna pure. Prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Funziona. Si nota, sì, che funziona. Eia. Spalle di giornate allenante comunque. E la colpa è mia, ahimè. Io potrei andarmene in giro per mari e monti, ma non ho voglia, proprio non c'è voglia. Potevi chiamarmi stamattina, ti avevo offerto il caffè, ti avevo offerto anche la pasta, quello che è. Dimmi una cosa, sto provando il corso. Lo studio CTE, come sta uscendo? Bene? Normale, come modulazione è normale, dai. Sì, come può essere forse questa. Se no, quant'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cosa può? Sì, 9 più 20 pieno. Anche 9 più 25, a cavallo, dai, tra i due. E adesso quant'è qua da po'? E non si nota la differenza quasi, Antonello, troppo decimillimetrica la differenza. Ho capito. Vicino qua su quanto. Hola. Prova. Sì, già ho visto quando hai staccato in diretta, si è vista la differenza, eh? Tipo 9 più 15 e 9 circa più 25, però non ci arriva, giusto. Ho capito. Ok. Ora, picchi positivi. Meno male. Vuole che l'altra l'ha passata in casino la matto, cos'è quella? Che strano che. Doveva più così tanto la matto. Ma che problema c'ha l'antenna, dimmi? Non lo so, bisogna che la controllo, il discorso è quello. Tutto quel vento che ho fatto, cazzo, non immaginerei che fosse magari la carica mezzo staccata, roba del genere. Siccome avevo pigliato il vento, non so se la notte mi sono dovuto fare tre volte, capito, per poter sistemare l'antenna, la RX300. Si è fatto via basamento, addirittura prima girato la maestrale, dopodiché girato l'altra parte, cazzo, ha beccato in pieno le antenne. Ma la mano ho messo l'antenna delle cose, se no se ne aveva portata appresso. Prima dalla parte del pelottone, poi invece ho fatto dalla parte del seno, hai capito? Abbiamo riempito il mobiliato. La notte sentivo glo, tutta la notte mi glo, e ho preso il basamento in ferro, dove ho messo provvisoriamente l'X200 per provarla. Cazzo come ondulava, trac, finché cazzo non è collata. Alle 8 e mezza del mattino sentivo il zocco, mi sono alzato, sono uscito fuori con caldo a letto a recuperare l'antenna, ma non mai si è pigliata dalla parte del baracchino, se fosse piegata giù come minimo. E che cade in testa qualcuno, mi pure, qui ti chiedono i danni. Vabbè, più che altro quello non è il mio problema, Giuseppe è il problema, che lì sotto casa sua, proprio a 2 metri dal palazzo, passa la ferrovia, quella elettrificata del coso, se non dovesse cadere la 27L in orizzontale, che manda il corpo e il cabine da 15.000, cazzo, è meglio che si nasconda lui. Sei sparito. Sì, quasi, dai, tanto non c'è niente di cui parlare. Sto andando e calando. Io lo so. Io, vabbè, oggi è domenica pure, sono l'altro. Quindi figurati. Oggi è una giornata proprio strana, la verità. Infatti te l'ho detto che... A chi l'avevo detto, a te, a Bombolo, che almeno sabato scorso, non ieri, l'altra volta, domenica ci siamo andati in campagna a mangiare lì, a arrostire, no, la arrostita sabato, vero? Ci siamo distratti, abbiamo usato tutta roba usagetta, piatti, bicchieri posate usagette, in modo da non, capito, da non lasciare belli distanziati, col tavolo eravamo... Il tavolo è grande, eravamo in 4, a voglia, belli distanziati, tutte le misure di sicurezza prese, eccetera. Almeno ieri però all'aria aperta, capito? In campagna, no? Chiuso in 4 mura. Sì, oggi ho visto un tipo che dello spi è entrato, si è preso 15 casse di birra, si è preso. Carne, ricoso, e tu figurati. stasera è eliminata come minimo. Altro che distanziamento globale, quello. Se ne fregano le balle, capito, nei paesi. Evidentemente devono fare qualche pranzo, qualche cena, cosa non c'era. Insomma, una macchina piena di roba. Birra in gattina, birra di quella in bottiglia, dopodiché whisky, vino, di tutto c'era, carne. Questi si hanno fatto, ora devo fare qualche cena o devo fare qualche pranzo stanotte. E sempre diciamo alcolici, però alcolici non deve mancare mai la Beozia ai sassaresi, mamma mia che cultura, e non è solo i sassaresi, tutta Italia così, tutta Europa, tutto il mondo, come la canzone di Giuseppe Masia, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, a bere, al bar, non vedi che Sassari è... Sassari sta diventando un bar a cielo aperto, a ogni 20 metri c'è un bar con i tavolini fuori, è una cosa incredibile. Sì, vabbè, quando ho aperto per il Covid, tu immaginati, io sono nato con con detto bandito, era mezzanotte, 11 metri a mezzanotte, c'erano tutti i tavolini fuori, tutti pieni, non si poteva neanche entrare. Ho speso quasi 25 euro figurativo dalla carta, non va bene, 25 euro tutto in spine e da bella genere, capito? Vediamo se è rientrato Claudio. Claudio, ci sei? Sono io, sto facendo cosa? Ah, va bene, impegnato. No, volevo chiedere, se tu al bar stavi bevendo il caffè, perché io ancora mi sto fidando, però c'ho paura che... Cioè, cosa ne so io di come sono lavate le tazzine? Magari danno una sciacquettata così, andante. Non andrebbero in teoria sanificate, sterilizzate, cosa ne so io? No, io quando esco a prendere il caffè vado solo da mia figlia, la prima non ci sta andando più. Io ci ho pensato varie volte, magari cioè, ci beve uno che ha il virus, gli danno una sciacquata sotto il rubinetto, magari rimane qualche residuo di saliva, anche piccolo mi. Poi ci beve un altro e rimane contagiato. E stavo valutando se è il caso davvero di pigliarsi il caffè solo a casa, evitare di pigliarlo anche al bar, perché io non vedo nessuno che le sterilizza con la lavastoviglie. O forse a fine giornata, a metà giornata riescono a fare il carico, no? E la lavastoviglie lavora anche a quanto sarà, a 100 gradi, non so quanto sia, dovrebbe uccidere anche il virus. Boh. Ma non so come sia, io vado a mia figlia perché so che è tutto in ordine, altri bar non lo so, quindi non ci vado. Anzi, per prudenza i bar avrebbero dovuto dare le... come si chiamano? I bicchierini usa e getta, come li usiamo qua in casa per il caffè. Così sono nuovi, escono dalla confezione, capito? Non sono toccati da nessuno, con le labbra, eccetera. Vabbè, si stanno facendo venire paranoie, questa sarà il virus. Boh. Tanto mi sarebbe succedere, non ci sono misure di precauzione che puoi prendere. Anche chi ci lavora lì, nonostante mascherine, visiere, guanti, controguanti e coso, quando meno te l'aspetti, capita anche a quelli, agli operatori sanitari. Ogni tanto muore qualche medico, purtroppo, per carità, che schifo di 2020, guarda, veramente uno schifo, sta venendo la depressione a me. Sperate, speriamo che passi questa cosa, se no veramente... un casino nero per tutti, per chi ha attività e per chi non ha attività. Facciamo due vite di bar, hai visto? Adesso fanno il McDonald's, cosa fa? Vai lì, la pedalietta, ti prendi la da mangiare, ti lavagni in macchina e sono cazzi duri, e voi, il diritto. E quindi adesso vedrai che fanno anche il bar così. Non fanno che? Siete vicino, mi scusi, mi servono due birre, ecco le birre nel tavolino, vuoi anche due bicchieri pronti, arrivederci, grazie, arrangiati. Ma io sto vedendo cose anche peggiori, tipo a Pesaro, praticamente il sindaco ha indicato che certe vie sono percorribili, sono, ha fatto una, un, come si chiama, un'ordinanza, certe vie sono percorribili solo in un senso, cioè questo sarebbe entrato a piedi sto dicendo, sarebbe passato contromano in questa via secondo l'ordinanza, un pedone, stiamo parlando di pedone, e il poliziotto l'ha seguito fin dentro al negozio per pigliare le generalità, capito?